Capitolo 10. L'astenia prende il calamo in mano. Era il settimo giorno di viaggio da quando eravamo partiti da Abido. Coridemo aveva affidato il comando della trireme Paralo a Demos, affiancato dal timoniere pilota. La nave proseguiva sotto la spinta di un moderato vento etesio. La vela si gonfiava a fatica. Metagit Minione era un mese poco ventilato, proprio come Catombeone. Ai remi c'erano appena una ventina di uomini, parecchi avevano preferito restare con i peltasti di Coridemo per andare a combattere contro i Macedoni a Olinto. In quei 7 giorni sotto il sole ci eravamo leccati le ferite. Demos era distrutto, Assiotea e Onai facevano di tutto per stargli vicino, ma capivo che occorreva tempo affinché lui potesse farsene una ragione. Unica luce, la piccola Aroa, che nella tunica corta sembrava ancor più scheletrica, ma il suo faccino aveva preso a sorridere, la sua pelle cadaverica si era bruciata al sole. Gli occhioni azzurri conservavano un velo di paura, ma si accendevano di vita sempre più frequentemente. Si era affezionata a me, a Demos, a Onai, ma chiamava mamma solo a Sotea. Spesso se le stava inginocchiata fra le sue gambe, mani nelle mani a fissarle, ogni tanto le sfiorava il volto con un dito. Quel giorno eravamo partiti dall'isola di Samo alle prime luci dell'alba e avevamo avvistato l'isola di Nasso. La bambina era andata assieme a Unai in fondo alla nave a osservare i tentativi del fanciullo di pescare con un amo da lui costruito la sera prima. Assiotea stava esaminando la mappa che gli aveva donato Eudosso, seduta accanto a Demos. Trierarca attentissimo alla navigazione, sguardo perso nell'orizzonte. Mi avvicinai, cercai di tirarlo su, scherzando sull'ingrato compito che Assiotea mi aveva affidato. Volse il capo. Si era tolta la fascia di cuoio che copriva il marchio a fuoco sulla fronte. Aveva dei lineamenti belli, ma il suo volto era duro come mai. Educatamente mi rivolse a una specie di ghigno, chiedendomi di che si trattava. La tua donna ha lasciato a me il compito di continuare a scrivere il diario di questa missione e di questa storia. Demos immerse di nuovo lo sguardo all'orizzonte. È importante che resti una testimonianza scritta di quello che sta accadendo. Non possiamo permettere che Aroa, da grande, legga solo le leggi di Platone. Così dicendo, si girò verso la prora. Non mi convince, era stata la voce limpida di Assiotea ad attrarre la mia attenzione. E allora, amica mia, se la pensi così, perché mi costringe a fare un lavoro che a me non piace? Sollevò il capo. Mi riferivo alla mappa. I suoi occhi verdi si conficcarono in me, candidi, mentre le belle labbra restarono schiuse, imbevute di sole. Sono due le cose strane. Gli avvenimenti si sono susseguiti con una tale rapidità che non ho avuto momento per riflettere. E ci fissò entrambi con quello sguardo luminoso, perennemente impregnato di curiosità. Demos la scrutò intensamente e Assiotea proseguì. Dunque, sono due i fatti che non mi convincono, ma non è detto che non ci sia una relazione fra l'uno e l'altro. Comunque è storia di mappe. L'astenia, mi dai qualche foglio di papiro e un calamo? Tirai fuori dalla cassettina che avevo sotto i piedi quello che Assiotea mi aveva chiesto. E glielo porsi. Lei si inginocchiò davanti al sedile del rematore vuoto, aprì il foglio che le aveva consegnato Eudosso. Un passo indietro. Eudosso sognava di trovare altre statuine a Crotone, a Selinunte, in Trinacria e a Cartagine. Guardate qua. Mise sotto gli occhi miei e di Demos la cartina disegnata da Eudosso, unendo con un rigaglio di legno le tre località. E nella parte orientale della mappa la riga intersecava la traccia, con tutte le sue miniere d'oro di Termos, Disaron, Eion, Pangeo, Abdera e Madenocorio. Eudosso sognava di trovare una statuetta Cartagine. Per lui questa retta non sarebbe stato più il frutto del caso, ma un disegno naturale che qualcuno aveva scoperto. Per questo aveva incaricato Racio di cercarla in occasione del suo ultimo viaggio. Eracio l'aveva trovata, consegnata a Eudosso, e pagato questo con la vita. Assiotea picchiettava con la punta del calamo sull'indicazione di Cartagine. Quello che non mi convince è perché l'assassino ha massacrato il nostro povero amico con la statuina e poi l'ha buttato dall'altra parte della sala. Il guardiano è spietato, ma non stupido. Non voleva che la teoria elaborata da Eudosso venisse confermata nel caso voi aveste trovato la statuetta nella località della mappa che indicava Cartagine, intervenne Demos. Da quello che mi raccontasti, Eudosso venne ucciso proprio sopra la ricostruzione della penisola di Cartagine. Probabilmente il guardiano assassino sentì dei rumori e invece di mettersi a spostare il corpo senza vita dello scienziato, andò a sistemare la statuina in traccia nel mezzo di tutte le altre miniere d'oro. Non la spostò, la lanciò per sbrigarsi. C'era sabbia e terriccio volato via nella parte alta della mappa alla fine della sala. Assiotea sollevò il bel volto bruciato dal sole. Ma il corpo di Eudosso non lo trovammo riverso sulla penisola di Cartagine e cercò i miei occhi. Ricordai anch'io la posizione. Non era su quella penisola, hai ragione, ma su questa al centro, di fronte a Creta, in basso. Siamo in due quindi a ricordare. Eudosso stava posizionando la statuina qui, a Cirene, e il venditore ambulante di papiri era di Cirene. Racio era andato a Cirene. Racio aveva trovato la statuina a Cirene. Gli occhi verdi di Assiotea cercavano una luce nascosta. Ma così svanisce l'idea di Eudosso. La voce di Demos vibrò di sorpresa. Niente più linea retta. Assiotea aggrottava le labbra. Eudosso quella mattina era irrequieto, aveva gli occhi spiritati, doveva aver intuito qualcosa, ma il guardiano non gli diede il tempo di confidarsi con noi. La mia amica protese una mano tremula, afferrando la mia, mentre continuava a fissare con ansia la cartina geografica. Perché oggi nella mia mente si sono incrociate queste due idee? A noi ne è spiegata solo una. Sembrava essere diluito nel viso di Demos il dolore che lo accompagnava da giorni. Non ha nulla a che vedere con la mappa di Eudosso, eppure, da qualche parte nella mia mente, un tarlo scava e mi dice che esiste un'attinenza. L'astenia, ricordi la prima lezione di Platone? E ficcò gli occhi luminosi nei miei. La noiosissima leggenda di Atlantide? Esattamente. Perché ci riempì la testa con tutti quegli inutili dettagli? Perché quel suo insistere fino alla noia sui 9.000 anni fa? Perché Atlantide doveva trovarsi obbligatoriamente oltre le colonne d'Eracle? Perché Platone non aveva mai voluto prendere in considerazione l'altra unità di misura proposta da Eudosso? Assiotea dovette leggere la perplessità sul volto mio e di Demos e allora proseguì col suo ragionamento. Se l'unità di misura fosse il mese lunare proposto dal nostro amico, 9.000 mesi lunari equivalgono a 7-800 anni solari. Quindi la catastrofe che distrusse Atlantide non sarebbe accaduta 9.000 anni fa, ma 1.000 anni fa. Ma dalle leggende noi sappiamo che 1.000 anni fa c'è stato un cataclisma che ha distrutto Creta e tutta questa zona. E perché Platone non ha voluto prendere in considerazione questa ipotesi? Perché le colonne d'Eracle? Per tenervi lontano da Creta, propose Demos, per deviare la vostra attenzione, per far sì che mai nessuno venisse da queste parti a cercare i resti di Atlantide. Perché in Atlantide c'è la casa del cielo col suo segreto? Avevo concluso io, con crescente trepidazione. Ma che relazione può esserci tra questo e la mappa di Eudosso? Assiotea era preda ad una forte emozione. Dalla cassettina tirò fuori un compasso di legno, aprì la cartina, piantò una punta sull'isola di Creta, provò a tracciare un cerchio. Tebe? Efeso? No. L'idea di un cerchio non ha senso. Sguardo sbarrato, pensiero lontano. Perché da una clessidra a questa parte sono stata salita da questi pensieri? Il tarlo, un ragnetto di luce, si è messo a scavare e mi ha preso per mano trascinandomi dietro di lui. Mentre diceva questo con voce concitata, La vidi scacciare una puntina rossa sulla mappa. Un ragnetto rosso, uno di quei puzzolenti pidocchietti che hanno fatto il nido in quella cassapanca, quelli che infestavano il grande ordinamento di Leucippo. Uno degli addetti alla vela si piantò davanti a Demos. Ci sono altre navi da guerra, conviene allontanarci. Demos si alzò di scatto, impartì subito l'ordine di remare verso sinistra, fece un cenno al timoniere pilota, poi tornò a concentrarsi sulla cartina che Assiotea teneva in mano. Ci troviamo qui adesso, di fronte alla costa orientale dell'isola di Nasso. Se c'è bisogno, scendiamo, ci fermiamo tra queste isolette per la notte e per essere ancora più sicuri, scendiamo ancora e ci andiamo a rifugiare qui, sull'ultimo avamposto prima del mare aperto. L'importante è evitare quelle maledette navi. Non si capisce chi siano, ma dal rostro potrebbero essere persiane. Assiotea si era messa a fissare l'ultima isola disegnata da Eudosso a forma di mezzaluna. Vuoi dire che per questa notte potremo rifugiarci lì? Come va una forma così strana? A Eudosso doveva tremare la mano quando la disegnò. Ma Demos era agitato, gettava occhiate cariche di sospetto all'orizzonte, verso le navi lontane che sembravano dirigersi verso di noi. Ma che ci fanno quelle navi da queste parti? Aveva gli occhi vigili, la faccia accigliata. Poi si decise a rispondere ad Assiotea. Invece Eudosso doveva conoscere perfettamente quell'isola. Chi l'ha vista non la dimentica più. È proprio come uno spicchio di luna, un pezzo di selene morso da uno squalo. La voce di Demos era più grave del solito. Quando mi portarono dal Pangeo all'Aurio, seguirono proprio questa rotta e la notte la passammo là, nel morso dello squalo. Il volto di Assotea era incollato alla cartina. Come si chiama quest'isola? La sua voce era un tremolo che sembrava giungere da lontano. Era evidente che i suoi pensieri vagavano oltre la nostra trireme. Se non ricordo male, Apamea, rispose Demos, occhi fissi sull'isola di Nasso che si allontanava. Poi aggrottò la fronte, gettò un'occhiata alla mappa, sfiorò la fronte di Assiotea perché sollevasse il capo dal foglio di papiro. Fammi vedere. No, scusa, Apamea sta qui, a oriente, nella Caria, vedi? Anche Eudosso l'aveva indicata. È una miniera d'oro. Ricordi quel giorno che ci parlò della dislocazione delle statuine? Apamea era l'unica località che mandava in fumo il disegno della sua retta. Poi, poggiando un dito sull'isola dalla forma di mezzaluna, parve ricordare: Tera! Ecco come si chiama, Tera! Subito dopo Demos riprese a scrutare il mare, occhi socchiusi, fronte aggrottata. Assiotea invece sembrava immerso in un sogno. Una luce livida vibrava nei suoi occhi, biascicava parole senza senso. Pidocchietti rossi. Un ragnetto che le insegue, i disegni sul grande ordinamento, il ragnetto che si rifugia nel disegno della mezzaluna, un morso di squalo. Era. La dea era. Ma non era chiaro, forse non c'era scritto era, ma Tera. E tremava. Afferrò il compasso, poggiò la mappa sul banco, filò la punta sul morso di squalo, aprì l'altra asta, la portò sino alla traccia sulla scritta del Pangeo, poi prese a ruotarla, sfiorando le località che fino ad allora sembravano proprio un pezzo di retta. Termon, Disaron, Eion, Pangeo, Abdera, Madenot Corio, poi continuò a ruotare l'asticella del compasso verso destra, verso oriente, e scese sulla Caria, attraversando esattamente Apamea, e proseguì tracciando il cerchio. Alla punta del compasso lasciava un segno, scavava ora nel mare, raggiungeva la Libia e risaliva Cirene. La voce di Assiotea era strozzata per l'emozione. Proseguì col suo cerchio, da Cirene risaliva, tracciava un solco nel mare, sfiorando l'isola di Cefalonia, di Leucade, per entrare nell'Epiro, sfiorando la Tessaglia e per finire di nuovo nelle miniere d'oro della Tracia. Termon, Disaron, Eion, Pangeo, Abdera, Madenocorio. Tera, il centro di questo cerchio. La voce di Assiotea vibrava di emozione. Non era una linea retta, ma un cerchio che passava per Apamea nella Caria e per Cirene. Eudossia è stato ucciso sulla penisola, sulla città di Cirene. Eudossia aveva intuito, era un cerchio e non una retta il segreto della mappa. E il centro è l'isola di Tera. Sollevò gli occhi lucidi su di noi. Sulla coppa del grande ordinamento era disegnata l'isola di Tera. Tera, il centro della mappa. Quindi non era solo il contenuto rivoluzionario dell'atomismo a scatenare la furia omicida del guardiano, ma i disegni che potevano portare a Tera. Tutto in Assiotea vibrava di trepidazione. L'Astenia, Demos, a Tera c'è la casa del cielo. Andiamoci, vi scongiuro. Aveva gli occhi imperlati di pianto. I pidocchietti rossi lasciarono scoperte solo le lettere Era, Tera, lo spicchio di luna è l'isola di Tera. Il volto di Assiotea sprigionava un fascino misterioso, mentre nella sua mente andavano riaccendendosi ricordi in letargo. Demos dovette scuoterla per le spalle più volte per attirare la sua attenzione. Vista la presenza di quelle maledette navi persiane, non è una cattiva idea fermarci almeno per stanotte in quell'isola. Poi si mise a scrutare la mappa, tornando a cercare lo sguardo di Assiotea. C'era qualche particolare in quei disegni che può aiutarci a trovare quel posto? Il viso della mia amica s'aprì a un sorriso candido. Demos, io lo troverò a quel posto. Ci guardava come a volersi far perdonare. Demos andò a parlare con il timoniere pilota, con gli addetti alla vela e con i rematori. Poi tornò con Unai e Aroa. La bambina cercò rifugio fra le braccia di Assiotea, mentre il fanciullino non accettava la decisione di Demos. No, questo non lo faccio. Io posso aiutarvi. Non sono un ragazzino, vengo con voi. Se c'è bisogno di chiamare aiuto, io corro più di voi. Sono come una capra, salto, tiro di fionda. Demos, io non lascio mamma. Avevo una voce addolorata, ma ferma. Comanda qualunque cosa, ma non questa. Tu mi lasci sulla nave, io scappo e vi raggiungo. Puoi ammazzarmi di botte, puoi legarmi, tanto io scappo e vi trovo. Assiotea venne in suo soccorso. Unai ha ragione, ci può aiutare. L'espressione del volto e degli occhi di Demos non lasciava trasparire i suoi pensieri. Prese Unai con sé e andarono al fondo della nave a preparare l'occorrente. Assiotea, il grande ordinamento non l'avevi letto. Così hai sempre sostenuto. Invece adesso sono saltati fuori i disegni. Ero curiosa. Forse potevo aiutarla a ricordare qualche altro particolare. I suoi occhi traboccavano di dolore. Il sangue in cui ero immersa mia madre mi aveva fatto dimenticare i disegni. Forse un bacio sugli occhi puri della bambina che se ne stava rannicchiata fra le sue braccia. Non so quello che mi sta succedendo, l'astenia. Provo una sensazione strana, un'ansia mai provata, come una vertigine. E un'abbagliante visione tornò a riflettersi sul suo bellissimo volto. Raggiungemmo la punta settentrionale di Tera quando il sole cominciava a calare, anche se mancavano ancora molte clessidre al tramonto. La nostra trireme, accompagnata da uno stormo di gabbiani, gettò l'ancora nel piccolo porto di Oia, il paesino che si vedeva arroccato sulla collina di fronte a noi. Demos lasciò detto ai suoi uomini di aspettarci un giorno, non di più. Se per il tramonto dell'indomani non fossimo tornati, avrebbero dovuto alzare la vela e dirigersi verso Milo, costeggiando tutte le isole indicate nella mappa fino a Capo Sunio e quindi al Pireo. Gli occhi della bambina si imperlarono di lacrime mentre io, Assiotea, Demos e Onai ci allontanavamo. Faceva caldo, ci inerpicammo verso l'alta collina, aggirammo il paesino dirigendoci verso l'inizio del morso dello squalo. Quando raggiungemmo lo strapiombo sul mare, lo spettacolo che si presentò ai nostri occhi fu terribile e affascinante. Sulla nostra destra, un'isoletta che noi dominavamo quasi del tutto, la cui parte rivolta verso di noi aveva basse pareti taglienti sul mare. Sulla nostra sinistra invece il morso dello squalo, simile a un ferro di cavallo, pareti altissime a picco sul mare, rocce brune e rossastre, con rientranze, grotte, senza un'ombra di vegetazione. Quella vista incuteva un senso di pericolo, eravamo rimasti senza fiato. Assiotea guardava spaventata lo spettacolo davanti a noi. Nel passato gli inferi si sono aperti e hanno inghiottito mezza isola. Stringevo una mano di Unai nella sua, cercò gli occhi miei e di Demos. Seguiamo il percorso verso sud, camminando lungo il bordo dello strapiombo. Quello che cerchiamo si trova qui. Deve trovarsi qui, lungo questa scogliera. Demos si incamminò, seguito da Unai e Assiotea, mentre io chiudevo il gruppo. Il sole picchiava forte, ma aspirava un'aria ristoratrice che rendeva possibile la nostra avventura. Ogni tanto ci fermavamo per bere un sorso d'acqua dalla borraccia di pelle che ognuno di noi portava. Osservavamo la scogliera che precipitava a picco sul mare, facendo molta attenzione alle rientranze, alle grotte, se c'erano tracce di cunicoli o di scale nella roccia. Ma non incontrammo nessun segno della mano dell'uomo. E proseguimmo, in silenzio, occhi ben aperti, perlustrando la scogliera che scendeva a picco sul mare. Demos era taciturno come mai, mentre Unai gli faceva notare qualunque dettaglio strano. Incontrammo alcune grotte nella parte alta, appena sotto di noi. Attaccammo Unai alle corde che avevamo portato, lo aiutammo a calarsi lungo la parete ripida, ma non trovavamo nulla. La sabbia imprigionata nella clessidra cadeva inesorabilmente. Demos era impenetrabile, attento solo a dove metteva i piedi, perché bastava un passo falso e si poteva precipitare nella scogliera. Io ero turbata dal panorama e mi dicevo che se esisteva il mondo degli inferi, quel mondo si trovava là, sotto quel lembo di mare che aveva inghiottito la parte dell'isola mancante. L'oro della giornata di sole diluiva nel tramonto, anche se il riflesso nelle acque immobili del mare era ancora accecante. Vidi Assiotea che si chinava a raccogliere un sasso, fermarsi, osservarlo con attenzione, occhi accesi d'una nuova fiamma. Lo ricalco, o comunque si chiami, è la pietra con cui hanno scolpito le statuine. Cercò gli occhi miei di Demos e di Unai. Ci porse il sasso, una pietra stranamente levigata, tranne a un lato, grezzo. Ognuno di noi lo soppesò. Era pesantissimo, nonostante le piccole dimensioni. Demos prese a perlustrare il luogo senza trovar nulla che facesse pensare a una costruzione. Si allontanò, proseguì. Lo vedemmo fare il giro dell'insenatura davanti a noi, guardare in alto, farci segno di raggiungerlo. Unai si mise a correre. Anch'io e Assiotea affrettammo il passo. Quando li raggiungemmo, seguimmo il braccio di Demos proteso, la sua mano che indicava una specie di apertura quasi a metà parete. Come facciamo ad arrivarci? Assiotea ci osservava, timorosa di esporsi alle nostre critiche. Non voglio che succeda niente a nessuno di noi. La sua voce era difettosa. Provo una sensazione strana, non riesco a dominarla. Non capisco che mi stia succedendo, ma devo andare là sotto, in quella fessura. Unai cercò di calmarla. Assiotea, siamo qui per questo. Mi attaccate a una corda e mi fate scendere, altrimenti a che servo io? Unimmo tutte le corde che avevamo. Tornammo indietro, piazzandoci sopra la fessura. Legammo il capo della corda a uno spuntone di roccia a forma di uncino. Poi Demos fissò l'altro capo attorno alle ascelle del ragazzo. Unai, quando arrivi, non slegarti. Dai un'occhiata, ti resterà un po' di corda. Se vedi che tutto è a posto, slegati e lancia un fischio. Demos era vigile come mai. Se capisci che è pericoloso, fai tre fischi e ti tiriamo su. E gli strinse le braccia con un fremito d'affetto. Io tornai sulla punta della cresta. Demos e Assiotea mollavano pian piano la corda. Unai scendeva lungo la parete. Si fermava ogni tanto appoggiandosi sugli spuntoni di roccia, si aggrappava con le mani calandosi come un ragno. Dopo un tempo che mi parve interminabile, il fanciullo raggiunse la fessura. Feci segno a Demos che Unai era arrivato a destinazione. Vidi il ragazzo intrufolarsi all'interno, portandosi dietro la corda. Il cuore mi batteva forte. Aspettammo. La fune ancora correva. Finì, poi. Poi Unai tornò ad apparire. Mi faceva segno che era tutto a posto. Gridò qualcosa che l'eco rese indecifrabile. Lo ripeté. Intuì che diceva che c'erano le scale. Lo gridai a Demos e a Assiotea. Unai si tolse la corda ed emise uno dei suoi fischi che echeggiò come una saetta. Demos ritirò la fune e così io lasciai la postazione. Tornai da loro. Domandai se avevano inteso il grido di Unai. Ci è parso di capire che c'è una scala, mi disse Assiotea. Anche a me. Chi scende adesso? E fissavo intimorita Demos. Mi guardò fissamente. Facciamo scendere Assiotea. Poi vado io. Se le cose andranno bene, in un'altra occasione verrai anche tu. Mi sentii ribollire di delusione, di rabbia. Ma sei matto? Io vengo con voi. Fosse l'ultima azione della mia vita. Adesso scende Assiotea, poi mi calo io. E per ultimo tu, ce la fai. Sei agilissimo. Ci sono gli spuntoni a cui afferrarti. Credo che sia meno pericoloso di quanto sembri. E dovevo essere così decisa che lui non provò a insistere. Fissammo la corda sotto le ascelle di Assiotea e l'aiutammo a calarsi. Quando più tardi sentimmo il fischio di un ai, tirammo sulla corda e toccò a me. Mentre mi afferravo agli spuntoni di roccia, mentre tremavo cercando di non guardare sotto, mi dicevo che era più pericoloso di quanto avessi immaginato. Ma le grida di incoraggiamento di Unai e Assiotea tennero alto il mio morale e riuscii a raggiungerli, ad abbracciarli. Unai emise un altro fischio liberatorio. Tremavamo al pensiero che Demos non era legato, ma lo vedemmo scendere, fermarsi, riprendere, scivolare sulla corda, tenerle incrociate in mezzo alle gambe. Lo incitavamo, finché ci raggiunse trafelato. Papà, c'è una scala di pietra che entra nella roccia e scende. Unai era emozionato. Sapeva che aveva svolto un ruolo importante nella missione in corso. Demos, non so da dove arriva la luce, ma non c'è bisogno di accendere nessuna fiaccola. Demos abbracciò il ragazzo, poi Assiotea. Passò avanti e prese a scendere la scala. Uno sbattere d'ali fra le nostre teste, grida lugubri di cattivo presagio, delle civette volarono spaventate verso l'uscita. Demos si intrufolò in una galleria. Assiotea lo seguiva, io le tenevo dietro, per ultimo Unai. Era un cunicolo rettangolare, alto quasi quanto noi, scavato nella roccia. Una pietra chiara che faceva filtrare un alone di luce sufficiente a farci avanzare. La galleria si snodava fino a raggiungere un'altra scala. Scendemmo proseguendo per un altro cunicolo. L'aria che si respirava era pulita, la levigatezza delle pareti era incredibile, ma era il chiarore che ci spaventava. Era come se la pietra fosse capace di emettere luce propria. Non si vedevano fiaccole, pozzi, specchi. L'alone proveniva dalla roccia. Potevamo sentire i battiti dei nostri cuori. Scendemmo percorrendo decine di scale di gallerie, fino a raggiungerne una con il soffitto a volta. Alla fine di questa c'era una piccola scala in salita. Demos lasciò il suo posto alla testa del gruppo ad Assiotea. Assiotea salì la scala lentamente. Potevamo udire il suo affanno, sfiorare quasi la sua paura, la sua emozione. La vedemmo sollevare il capo verso un cielo blu su cui erano incastonate stelle brillanti. La scorgemmo spalancare la bocca mentre gli occhi cominciavano a inumidirsi di pianto. Salì l'ultimo gradino e schiuse le mani come ad accarezzare tutto quello che andavo osservando. Anche noi ci precipitammo dietro di lei.